funzione che questi testi assumevano, come si riallacciavano alla Zianzeno, cosa volevano trovare. Ci hai presentato un panorama amplissimo che per me è stato di un estremo interesse, siamo veramente molto grati, e sono certo che, dando la parola adesso a Enrico Maltese, avremo un altro contributo di prim'ordine dal quale noi ci aspettiamo appunto nuovi chiarimenti e nuove, siamo sicuri di apprendere nuove cose circa la fama della Zianzeno, non un accumulo di materiale inerte o erudito, ma veramente interpretazioni di passi, di testi che danno appunto il significato all'autore. Prego. Grazie. Però un momento, vediamo se tu sì. Non vorrei mica parlare per 40 minuti. Ah no, c'è. Sì, sì. Io spero che il professor Moreschini abbia ragione almeno al 10%. Il padre, Gregorio, sebbene sicuri ovunque di essere chiaro, non ottiene che alcuno nel leggere i suoi scritti non resti senza dubbi. Per questo molti, chi su un punto, chi su un altro, hanno composto diversi libri di esegesi, e anch'io ho chiarito in tal campo non poche aporie e ho dato, improvvisando, risposta adeguata ai quesiti. Così, nel discorso improvvisato sullo stile del teologo, Psello ricordava, con l'abituale compiacimento di sé, la propria attività di esegeta del Nazianzeno. Ma presso i posteri il suo lavoro non ha incontrato altrettanto interesse né altrettanta indulgenza, anzi, più di altri settori della sua imponente produzione di poligrafo, è stato condannato a un lungo oblio, restando quasi totalmente inedito fino alla pubblicazione, nello scorcio estremo dell'anno scorso, del primo volume dei Theologica curati da Paul Gautier. È successo così che i commenti di Psello su Gregorio sono rimasti per lo più, con pochissime eccezioni, ma per lo più coinvolti in un giudizio generale, non troppo lusinghiero, sull'opera teologica del poliistore. Per quanto fondata nella sostanza, la valutazione di questa communis opinio è inevitabilmente piuttosto vaga. Vengono messi in luce, sì, i tratti più genuinamente pselliani, il platonismo de rebus christianis, sul ceppo però di un eclettismo farraginoso, l'attento ossequio all'ortodossia ufficiale, la bizantina astrusità e prolissità di talune allegorie, la raffinatezza retorica dell'esposizione, che maschera peraltro una scarsa originalità speculativa. Ma molto, troppo, rimaneva in ombra: l'effettiva ampiezza delle letture ecclesiastiche di Psello, lo spettro degli interessi e delle conoscenze, la destinazione del lavoro interpretativo e, più del resto, la concreta applicazione del metodo, cioè i modi e le procedure adottate. Sono lacune che non sorprendono, considerata l'esiguità del materiale finora disponibile per l'indagine. Ora il primo volume dei Theologica fornisce una sostanziosa documentazione per iniziare a colmare i vuoti. 116 opuscoli esegetici, dei quali oltre il 90% totalmente inedito. E soprattutto per i commenti al Nazianzeno, che sono l'argomento di questa prima serie di cursori osservazioni, il lavoro di Gautier è preziosissimo, come può rendersi conto chi confronti i miseri frusti latini disseminati nelle edizioni del Bilius e del Leonclavius e poi rimbalzati parzialmente nel Migne, testi 3 o 4, con la rigogliosa messe ora raccolta nell'edizio Princeps. Poiché la mia esposizione si fonda essenzialmente sulla lettura dei nuovi testi prodotti da Gautier e in parte su ricerche avviate prima della loro pubblicazione, mi è indispensabile qualche cenno preliminare sulla qualità del volume. È un'ottima edizione, come non ci si poteva che attendere dal lavoro, dall'acribia di un benemerito specialista di Psello, quale Gautier, ma certamente l'ampiezza dell'impresa, 450 pagine di questa estenuante prosa ermeneutica pselliana, il suo carattere pionieristico e poi la mancata revisione dell'editore, scomparso nell'83, hanno in qualche modo inciso sul risultato finale. Dunque non vorrei che apparissero ingenerosi alcuni rilievi che hanno l'unico scopo di prospettare, nella fondamentale validità del lavoro compiuto da Gautier, l'acquisizione di nuovo materiale e il consolidamento di quello già edito. Cercherò di ridurmi all'essenziale. Nel volume di Gautier compaiono ben 67 ermeneiai su altrettanti luoghi discussi delle orazioni di Gregorio. È naturale chiedersi, dopo una così lunga attesa, se almeno in questo settore siano compresi tutti i testi pervenutici, sì da permettere un'esplorazione complessiva. Ora Gautier non ha avuto la possibilità, per il suo destino, di precisare i criteri della presentazione dei testi teologici e in proposito la prefazio, scritta nel 1986 dal direttore del progetto egdotico complessivo degli scritti minora pselliani, Westering, anch'egli recentissimamente scomparso, è alquanto reticente. Con un pizzico di buona volontà si riesce a capire questo dalla prefazio, e cioè che in questo primo volume sono stati inclusi, con un criterio, vedremo subito, abbastanza rischioso, tutti i testi contenuti nel principale testimone pselliano, che è il famosissimo Psellos Codex, il parigino greco 1182, eventualmente collazionati con un altro importante testimone, che è Laurenziano greco 57-40, sono rispettivamente P ed L. Gautier aveva provvisoriamente accantonato, forse perché non troppo convinto della paternità pselliana, una mezza dozzina di opuscoli teologici. Un paio sono poi invece stati reinseriti nell'edizione, credo sicuramente da Westering, e gli altri sono rimasti fuori. Io ho collazionato due di questi testi rimasti fuori dall'edizione, che sono quelli che ci riguardano da vicino, e sono rispettivamente il Laurenziano 121 verso 124 verso sull'orazione 2.13, il punto 3 della fotocopia, e 165 recto, 167 recto sull'orazione 39.12. Entrambi sono esegesi di luoghi del Nazianzeno e risalgono, almeno con lo stesso grado di certezza, dei testi accolti da Gautier a Psello. I due saggi si riconnettono agli opuscoli 67 e 68 editi da Gautier, ma sulla scorta del solo P. Però qui, io posso garantire, l'autorità di L è imprescindibile, perché il Laurenziano offre una redazione piena di quello che invece nell'edizione di Gautier è pressoché ridotto a un povero estratto. E di entrambi gli opuscoli quindi io vorrei fornire, mi propongo di fornire in appendice il nuovo testo Auctior. Un altro problema riguarda l'uso dei testimoni secondari accanto a P e L. Qui bisogna ricordare brevissimamente che la tradizione manoscritta degli scripta minore pselliani è terribilmente dispersiva. C'è proprio una diaspora di opuscoli in una quantità notevolissima di testimoni minori e quindi non si può ricostituire uno stemma codicum se non qualche volta per un gruppo di opuscoli o addirittura singoli opuscoli. E in una situazione tanto magmatica, anche per un editore scrupoloso, è pressoché impossibile garantire il carattere definitivo del lavoro. E quindi non di rado ulteriori esplorazioni, anche fortuite, dei testimoni recensiti, portano in superficie dati ancora ignoti. Il caso che mi si è presentato restituisce un nuovo testimone per un gruppo di opuscoli pselliani e intanto permette di risolvere uno dei molti punti oscuri della scoliografia bizantina sul Nazianzeno, già segnalato a suo tempo da Saidak e che io sappia rimasto tale. Nella rassegna di testimoni sporadici e deteriori, tracciata nella prefazio, Westering, Gautier menzionano due Vaticani, a loro dire irrilevanti, è il punto 4 della fotocopia che ho riportato per brevità. Si possono tranquillamente trascurare, dicono, il Vaticano Toboniano greco 134, che è un codice molto tardo, XVI secolo, e il Vaticano greco 409 del secolo XIV. Questo conterrebbe soltanto l'opuscolo 97 compendiato, entrambi sono pieni di errori e tutt'al più si avvicinano, quando gli va bene, all'incirca al codice laurenziano. Ora, non c'è nessun dubbio sull'eliminabilità del recentissimo Toboniano, ma per il Vaticano greco 409 le cose stanno ben diversamente. L'informazione della prefazio mi sembra che si basi unicamente sul catalogo di De Vres, che segnala appunto al foglio 153V l'excerptum rubricato sul codice Aporia Tupsellu. Ho avuto il codice tra le mani effettivamente è un povero estratto questo del foglio 153V e si deduce chiaramente che è stato apposto in un secondo momento dallo scriba a margine. Però la mano è la stessa dello scriba e questo mi ha fatto balenare l'eventualità che lo scriba potesse disporre già durante il lavoro di fonti pselliane, un tentativo. Il Vaticano contiene 16 discorsi del Nazianzeno corredati dal commento di Niceta di Eraclea, a cui si aggiungono estratti minori di Basilio Minimo e Giorgio Moceno, debitamente indicati da titoli in rosso. Però c'è anche del materiale anonimo, che è concatenato agli scoli citati e introdotto da rubriche reticenti quanto abbastanza curiose, almeno per me. Ne riproduco alcune al punto 5. Eisto auto xenizusa exegesis logiutinos, di un dotto. Xenizuses exegesio, xenizuses hermeneias e altre analoghe registrate da Saidac e De Vres. Ebbene, sotto queste e simili inscrizioni non si nasconde altro che Psello, precisamente come ho potuto ricostruire lungo l'intero codice di cui seguo l'ordine, gli opuscoli 102, 103, 87, eccetera, indicati al punto 6, 10 opuscoli in tutto. Non mi sentirei di escludere che da questo ponderoso manoscritto possa emergere qualche altra traccia di presenza pselliana, confusa con gli altri testi e irriconoscibili a una prima ricognizione. Per esempio l'opuscolo 86 non è introdotto da alcuna inscrizione, neanche del tipo depistante di quelle che ho riportato al punto 5, e quindi è stata solo la memoria dell'incipit, che è in rosso nel codice, a permettere di identificarlo. I risultati di questa collazione che ho condotto sono in corso di stampa e in questa sede mi limito solo ad anticipare che accanto a delle palesi trivializzazioni, perché tutto il codice è copiato in maniera negligente, il Vaticano offre delle lezioni occasionalmente senz'altro superiori, sia a L, e questo potrebbe non stupirci troppo, sia anche, credo, a P, ma questo altrove. Lasciamo però da parte queste questioni strettamente filologiche. Qual è il significato degli opuscoli nella produzione pselliana e nel Nachleben bizantino di Gregorio? Considerata l'assoluta novità dei testi, i tempi non sono certo maturi per un bilancio complessivo, sebbene alcune indicazioni emergano già con chiarezza. Intanto va subito rilevata la forte incidenza degli opuscoli dedicati a Nazianzeno all'interno del corpus teologico pselliano. Anche se una statistica precisa fino alla pubblicazione integrale dei Theologica non si può fare, raccogliendo tutto il materiale esegetico, edito o di cui si abbia notizia, o edito eventualmente in testi antiquati, constatiamo che il ruolo di Gregorio prevale rispetto alla materia biblica ed è incomparabilmente superiore a quello degli altri padri e autori bizantini. Le orazioni del Nazianzeno sono oggetto di, abbiamo detto, quasi 70 interventi, passi vetero e neotestamentari di una quarantina, mentre autori di spicco, come Basilio di Cesarea, Bizantini, Giovanni Climaco, Giovanni Damasceno, Cosmo Melodo, compaiono, sempre attenendoci a quello che la tradizione ci ha messo tra le mani, una sola volta a testa. Questa schiacciante preponderanza non si lascia totalmente spiegare con l'enorme fortuna che Gregorio, l'autore più citato della letteratura bizantina ecclesiastica, per usare una formula che credo azzeccata, di Jacques Noret, ebbe nel Medioevo greco, sul piano dell'autorità dottrinale, ma anche e soprattutto forse su quello artistico. E questa preponderanza non è neppure esclusivamente frutto delle preferenze retoriche di Psello, che nel già citato discorso improvvisato, eccetera, e nei caratteri stilistici di Gregorio il Teologo, Basilio Magno, Crisostomo e del Niceno, collocava il Nazianzeno, tuba della teologia, al di sopra di ogni altro autore cristiano. Negli opuscoli teologici, dove gli interessi retorici passano nettamente in secondo piano, Psello è guidato da motivazioni differenti. E qui un fattore decisivo nell'orientare le sue scelte sarà stato certamente il fascino di un padre così vicino al mondo pagano in estinzione da risultarne il mediatore cristiano più acuto e sensibile, ma soprattutto la vena platonica della sua speculazione, i punti di contatto col neoplatonismo contemporaneo. L'attrattiva di un'ortodossia permeata di accademia poteva essere notevole per il polistore che trovava in Gregorio teologo e filosofo uno dei terreni più fecondi e congeniali al proprio programma di umanista cristiano. E quindi non meraviglia che i luoghi del Nazianzeno, in cui più affiorano implicanze o terminologia platonizzanti, diventino negli opuscoli pselliani oggetto di particolare attenzione, soprattutto nel XX e nel XXI. D'ora in poi io metterò il rinvio numerico agli opuscoli editi da Gautier, ma naturalmente le osservazioni che andrò facendo sono tutte strettamente connesse a questi opuscoli, quali a loro volta in un gioco di rinvii sono connessi a dei precisi testi di Gregorio. Centri privilegiati di interesse degli opuscoli pselliani sono le orazioni 28 e 29 e la 38, che da sole impegnano quasi metà dei saggi. Quindi il problema trinitario, le relazioni ipostatiche, la natura e l'eternità di Dio, temi centrali nella dottrina del Nazianzeno. Nel complesso i discorsi di Gregorio coinvolti in maggiore o minor misura sono circa una ventina. La prima domanda che gli opuscoli pongono è: quanto deve l'esegesi pselliana ai suoi precedenti bizantini? È impossibile rispondere a fondo considerato il notorio stato fatiscente dei testi, però pareva doveroso fare almeno un tentativo, e qui mi è stato di particolare aiuto il lavoro del professor Trisoglio sulla mentalità e gli atteggiamenti degli scoliasti bizantini. Al confronto con il poco materiale edito ho cercato di aggiungere un parziale sondaggio tra gli inediti, condotto proprio sul menzionato Vaticano Greco 409, che offre a tratti degli utili stralci sinottici dell'erudizione precedente e coeva a Psello, dallo pseudo nonno agli esegeti dei secoli X-XI. Per quanto ho potuto constatare, non esiste nessuna convergenza apprezzabile, cospicua, tra gli opuscoli pselliani e la massa di questi commenti, né contenutistica, se si eccettuano naturalmente analogie di dati obiettivi e casi di comunis opinio, né formale, né soprattutto metodologica e direi ideologica. Non saprei comunque indicare nella mia campionatura nessuna filiazione evidente. Ci sono solo pochissimi opuscoli di Psello, prevalentemente costruiti con materiale di riporto e per l'esattezza con estratti dagli ambigua di Massimo Confessore. Tolte queste eccezioni, il salto rispetto al passato, soprattutto recente, sembra piuttosto netto. Gli orientamenti degli immediati predecessori di Psello sono relativamente noti. Il loro lavoro, con le ovvie oscillazioni e peculiarità, qui si sta riassumendo a braccio naturalmente, ma il loro lavoro si muove lungo la linea tradizionale del commento erudito e grammaticale. Invece l'esegesi pselliana non è, se non in via occasionale e strumentale, opera di filologia, non vuole essere opera di filologia, ma secondo quanto l'autore ribadisce costantemente di filosofia, cioè di quella scienza che nell'accezione del Medioevo bizantino include la teologia quale disciplina particolare, ovvero le si colloca a fianco sul piano epistemologico e gerarchico, senza che tra i due ordini speculativi si possa sempre stabilire una sicura distinzione. È Psello stesso che si premura di mettere un solco profondo tra sé e gli interpreti precedenti, con i quali polemizza in maniera più o meno velata. Proclama orgogliosamente, come sempre, la propria novità e superiorità, li accusa di non avere indagato metà socratichesse epistemes, cioè filosoficamente, arrestandosi dunque alla superficie del problema, lontani da soluzioni scientifiche. Ma il divorzio dalle angustie di quella scoliografia è rimarcato anche sul piano formale. In contrapposizione al commento continuo che è tipico nella tradizione, Psello adotta la struttura del saggio autonomo, incentrato su un singolo passo e problemi connessi, cioè la aporia, kai lusis. Anche là dove, come per esempio negli opuscoli 85 e 97 che illustrano nel complesso l'orazione 38, 7, 9 di Gregorio, anche là dove i vari interventi tornano sullo stesso passo con riprese e rinvii interni, la configurazione rimane quella di una serie di saggi monografici fruibili in maniera indipendente, anche se complementari. La scelta riflette la cifra caratteristica del poligrafo, che è portato a lavorare per singoli scorci e problemi e per approfondimenti particolari, ed è alieno dalle imprese sistematiche. Ma questa volta le inclinazioni personali del dotto sono coniugate con precise esigenze pratiche. Soltanto 4 degli opuscoli su Gregorio appartengono al genere, ben testimoniato dagli scripta minora, della risposta scritta al quesito di un interlocutore. Gli altri, con qualche caso dubbio, 3 o 4, sono tutti rivolti agli allievi. Essi ci consegnano quindi, e qui sta una straordinaria ragione di interesse dei nostri testi, le lezioni di Psello. Della sua attività di insegnante finora conoscevamo soprattutto elementi esterni, il clamoroso successo che il Polistore si preoccupa di segnalare alla posterità, qualche altro particolare curioso, una serie di scritti in cui il retore redarguisce o minaccia allievi distratti, ritardatari, pigri, qualche lettera in cui ci parla di suoi studenti, poco altro. Ma erano rarissimi finora i testi delle lezioni di filosofia, credo con precisione non più di 3. Finalmente adesso gli opuscoli su Nazianzeno ci spalancano le porte della scuola psegliana e mostrano l'insigne maestro all'opera. Il nucleo principale dei saggi su Nazianzeno dovrebbe senz'altro risalire all'insegnamento che Psello svolse a partire dal 1043, 25enne, per una decina d'anni circa, con il titolo di Hypatoston Philosophon nella cosiddetta facoltà di filosofia dell'Università di Bisanzio, riorganizzata da Costantino IX Monomaco. I tratti pragmatici della comunicazione didattica restituiscono un quadro molto vivido, colorito, del magistero psegliano e su un piano generale dell'istruzione universitaria bizantina. Non facciamo nessuno sforzo, se leggiamo questi testi, a vedere Psello attorniato dal choros dei suoi filosofotatoi paides, mentre ascolta, sollecita, previene i loro quesiti, mentre tronca opportunamente la lezione, perché, dice, li vede stanchi o deconcentrati, incapaci di seguire o prendere appunti, mentre crea attesa, sospendendo una spiegazione interessante e rinviandola a successivi approfondimenti. Il professore è molto abile nel sottolineare la terribile difficoltà dei quesiti, il proprio imbarazzo, travaglio iniziale e poi l'accurata indagine trionfalmente risolutrice. Appena può dichiara un profondo amore per gli studenti, i figli spirituali del suo sapere, ed esalta la propria abnegazione. Al termine di una lezione, esausto, vorrebbe aprire le porte per prendere una boccata d'aria, anche se è pronto per i suoi allievi, dice, a esalare l'anima. Concludendo trattazioni che sente evidentemente incomplete, Psello ricorda che sarebbe stato in grado di dire ben di più, ma ha preferito attenuare la materia per non abbagliare le deboli pupille degli studenti. E invece altrove, per sottrarsi ad accuse di prolissità o scarsa attinenza al tema, rivendica a gran voce la sua missione di filosofo che l'autorizza ad arricchire l'esposizione con tutto quello che gli si presenti opportuno e a non misurare il tempo sulla clessidra come un avvocato di fronte al tribunale. E chissà che in questa battuta non ci sia una frecciata per gli studenti della parallela facoltà di giurisprudenza, guidati dal collega e Dio sa quanto rivale Giovanni Xifilino. Non avevamo dubbi che Psello sapesse vendere bene la propria merce, come a palazzo, così pure in classe. Nel prendere congedo dagli studenti, il filosofo si lascia andare volentieri ad apparente professioni di modestia, che in realtà, come nel suo stile, intendono lanciare una sfida all'uditorio e al mondo della cultura. Questo è quanto ho potuto raccogliere e porgervi. Se avete di meglio, seguitelo, altrimenti attenetevi al mio insegnamento. Se si rimette al giudizio degli studenti, se li invita, ad andare oltre la sua illustrazione, è sempre per enfatizzare ai loro occhi l'estrema difficoltà del compito che egli si è assunto leggendo per loro il Nazianzeno. Eppure qualche volta l'autoapologia che si concentra nel finale delle lezioni sembra rispondere, oltre alle caratteristiche istanze narcisistiche del personaggio, a scrupoli obiettivi. al timore che il suo insegnamento, intriso di elementi classici e neoplatonici, possa attirargli critiche ben più rischiose che l'obiezione di qualche allievo insoddisfatto. Nell'opuscolo 64, sull'orazione 38-7, Psello, che ha appena finito di usare la arcaia filosofia, ossia Proclo, per spiegare il concetto di unione, enosis, con Dio, chiudendo l'esposizione, si dichiara umilmente indegno della visione divina del grande padre e poi precisa: se la mia spiegazione non sembra opportuna, sia espunta dalle trattazioni scientifiche. Le circostanze biografiche che, come è noto, portarono Psello a dover pubblicamente compiere una professione di fede ortodossa e a difendersi contro le accuse di preferire Platone a Cristo nella celebre epistola Giovanni Xifilino, commentata magistralmente da Criscuolo, dimostrano come la sua cautela su questo punto fosse più che giustificata. Questo ci porta a parlare brevemente dei contenuti filosofici delle lezioni sul Nazianzeno, sebbene l'ampiezza e la densità di tutti questi testi costringano nel breve panorama a toccare solo pochi punti di rilievo. Un aspetto che colpisce è l'enfasi posta, in chiave didattico-metodologica, sui procedimenti dialettici. Psello coglie ogni occasione per richiamarne l'importanza e fornirne un'opportuna esemplificazione lungo i testi di Gregorio. Lo scopo può essere molto attinente al passo oggetto di lettura, così avviene qualche volta. L'interprete cerca di dimostrare la solidità delle argomentazioni del Nazianzeno, ma spesso Psello ama riprendere a beneficio dell'uditorio le leggi generali della logica. In questo la lettura delle orazioni teologiche, soprattutto la 29, gli fornisce la materia migliore. Quando Gregorio attacca la fragilità teoretica di Eunomio, accusandolo di paralogismo, orazione 29-16, Psello si lancia a riassumere, ma con una certa ampiezza, la classificazione dei paralogismi in Aristotele e si dilunga poi sui paralogismi stoici. Discutendo l'opuscolo 24, sull'orazione 29-12, prima di illustrare la risposta del teologo a Eunomio, Psello vuole dimostrare che l'eretico non sa usare la dialettica. Confuta la sua accezione di tautotes e di qui parte per un excursus sul principio di identità nella logica aristotelica. Solo al termine espone succintamente le obiezioni sul piano dogmatico di Gregorio. Anche nell'opuscolo 52 Psello si sostituisce direttamente al Nazianzeno e in prima persona attacca Eunomio sul piano della congruenza argomentativa. Le categorie, i topica, i sofistici elenchi accanto alla metafisica stanno sempre aperti sullo scrittoio dell'esegeta. È inevitabile che un'attenzione così assidua e capillare finisca per tradursi in una prospettiva univoca e credo deformante. Psello ripete che Gregorio, nella sua strenua lotta contro Eunomio, potrebbe agevolmente sistemare le cose, dice così, fysikos kai theologikos, ma ha preferito schiantare l'avversario logikais methodois. Ammiro quest'uomo, esclama, perché nella sua grande cultura sa usare l'arma richiesta dalle circostanze e non mescola gli strumenti. Affronta Eunomio sul piano della dialettica, senza uscirne, e lì lo vince, emulando i grandi filosofi degli Elleni, da Aristotele a Proclo. Nella rilettura laica di Psello, Gregorio diventa il campione di un solido argomentare scientifico, prima ancora che il paladino dell'ortodossia. Questa sorta di continua verifica e ripasso, diciamo così, della dialettica nell'esposizione di Gregorio ha naturalmente le sue radici nell'impostazione della scuola bizantina, ma l'impressione è che Psello cerchi così spesso di trasferire il dibattito dal terreno meramente dogmatico a quello della liceità e convenienza del discutere razionale anche per un altro motivo. Nella sua qualità di strumento universale e neutro, il meccanismo logico appartiene, come Psello non manca di rilevare, in egual misura a filosofi e teologi, al mondo classico come al mondo cristiano. Indagarne sottilmente le applicazioni, come Psello fa e insegna a fare, significa puntare la lente sulla identità delle strutture mentali che connettono antico e nuovo. Ma allora l'esplorazione dialettica dei testi diventa elemento privilegiato in quel delicato tentativo di integrazione tra eredità pagana e sapere ortodosso che costituisce l'essenza stessa della cultura bizantina e che proprio dall'operato di Psello riceve una potente spinta. Su questo programma di conciliazione si fonda, come è noto, l'ideale stesso dell'umanesimo cristiano di Psello. Le sue lezioni su Nazianzeno ora ci consentono di vedere meglio come il polistore lo applicasse nella prassi dell'insegnamento e, a mio parere, dissolvono il sospetto che egli voglia o sappia soltanto accumulare materiale eterogeneo per sfoggiare la propria erudizione di classicista. Ovviamente il suo intervento risulta meno estemporaneo, meno gratuito, quando l'aggancio per una digressione sulla cultura pagana è offerta dal testo stesso di Gregorio. E agganci di questo genere sono moltissimi. Nell'opuscolo 23, un solo caso, a proposito dell'affermazione di Gregorio, tre sono le più antiche opinioni su Dio: anarchia, poliarchia e monarchia. Psello ha il destro di inserire una ricchissima dossografia ellenica, egizia e caldaica, soffermandosi successivamente sulle differenze che i sinonimi possono mascherare in tanto delicata materia tra mondo pagano e dogma cristiano. Nell'opuscolo 106, sull'orazione 31.5, Psello coglie al volo il cenno di Gregorio a greci theologi koteroi, che maggiormente si avvicinarono alla percezione dello Spirito Santo, ante litteram si intende, per discutere chi possa appartenere a questa schiera e in quali limiti. E qui non possiamo davvero parlare di divagazioni puramente esibitorie, ma di un inquadramento del problema o comunque di un corredo informativo utile a chiarire un'affermazione del Nazianzeno. A questi casi certo si affiancano altri dove il richiamo al pensiero pagano sembrerebbe meno motivato. Per esempio nell'opuscolo 22, sull'orazione 29.3, Psello non risponde al dubbio degli studenti sul preciso significato di anarchos, senza principio. Non risponde prima di aver esposto la dottrina dei theologi kotatoi, tra gli elleni, in merito all'eternità. Poi ricorda rapidamente, Gregorio accantona queste credenze perché segue i testi sacri, ma Psello le riporta. Nell'opuscolo 51, il polistore prende spunto dall'affermazione di Gregorio che alcuni attribuiscono agli angeli un corpo immateriale per presentare prima la dottrina kathaimas cristiana, poi la dottrina kathellenas sul corpo dei demoni e degli angeli. Non lo fa per la propria gloria di docente, si giustifica, ma per agevolare la comprensione dei libri pagani in cui i giovani si possono imbattere. Ben inteso, Psello osserva che la Chiesa non ha alcun bisogno del sapere precristiano per la systasis del proprio dogma, ma significativamente lo fa sempre solo dopo aver esposto le dottrine degli elleni su questo o quel punto. La forte unità che egli sente e che persegue tra cultura classica e cristiana non offusca in lui la percezione dei caratteri distintivi, la coscienza dell'assoluta novità della rivelazione. E tuttavia, appena se ne offre la possibilità, l'interprete indugia a ripercorrere le antiche teorie, a captarvi ovunque possibile consonanze e dissonanze con la fede ortodossa e i suoi avversari. È impressionante il suo sforzo di rintracciare nelle deviazioni eretiche di varia matrice la linfa del sapere greco, filosofico o anche teurgico. Ora, in questo modo di procedere, rischiamo di vedere davvero soltanto una congerie disarticolata di dati se non afferriamo che il nucleo dell'insegnamento pselliano sta in una riflessione globale su termini e nozioni tra antichità e cristianesimo e nella conseguente tendenza a inserire i problemi suscitati dalla lettura del testo in una nuova e più aperta prospettiva critica. I risultati si distaccano sensibilmente, credo, dalla semplice curiositas o dall'erudizione enciclopedica, per avvicinarsi a tratti, nei limiti congeniti della paideia medio-greca, alla storia della cultura e delle idee. La lettura dell'ardua orazione 29 suscita molti interrogativi tra gli studenti di Psello, addirittura sei opuscoli su un breve passo, breve ma denso. Nella polemica cristologica del Nazianzeno contro l'arianesimo radicale di Eunomio, che cosa significa, per esempio, chiedono i ragazzi, la domanda «il tempo è nel tempo o no?». Per il filosofo è impossibile affrontare il problema senza rileggere attentamente le relazioni tra Cronos e Cosmos in Platone, la nozione di tempo in Aristotele, l'idea di eternità in Plotino. «Abbiate pazienza», dice, «se allargo un poco il mio discorso per darvi quello che desiderate». La cultura bizantina sa che di ogni concezione cristiana esistono precorrimenti, per sintonia o distonia, nel pensiero antico. Ma ora la scuola filosofica di Psello istituzionalizza il principio che fino adesso non avevamo trovato applicato con tanta coerenza, così ben testimoniato, il principio del costante recupero e raffronto della sofia antecedente alla rivelazione. Nell'opuscolo 74, sul miracolo della Pentecoste, orazione 41-15, Psello spinge il suo razionalismo fino a voler stabilire se le lingue di fuoco, manifestazione dello spirito, fossero materialmente visibili o meno. Il problema della percezione del divino in forme sensibili, corporee, ha ricevuto soluzioni diverse, dice Psello, in ambito cristiano ed ellenico, ed egli presenta e discute entrambe le dottrine. Dopo aver esposto l'opinione ortodossa, si diffonde sulle concezioni neoplatoniche, da Plotino fino a Proclo, menzionando i diversi gradi di iniziazione alle visioni misteriche. Conclude: sono solo chiacchiere, fandonie raccontate dal teratologos Proclo, eppure è evidente che egli penserebbe di aver assolto il suo compito di insegnante solo a metà se le avesse taciute. E Psello non vuole dimezzare la paideia dei suoi allievi. E lungo la lettura di Gregorio trova insieme modo di confermare verità di fede e ripercorrere il pensiero greco. È facile supporre che questo atteggiamento potesse attirare i sospetti delle gerarchie ortodosse. Gli opuscoli su Gregorio fanno capire molto bene quali appigli potesse offrire il magistero pselliano alle accuse di platonismo da cui, abbiamo detto, il Polistore dovette difendersi. Non ci sono prove certe, non ne conosco, di un nesso diretto tra il suo insegnamento e quelle vicende, ma Platone, un Platone non distante dalla verità, dice, è ubiquo nei nostri opuscoli, fino a presentarsi come il typos precristiano di Gregorio. Per questo talvolta il professore fissa negli occhi i suoi allievi. Lo dichiaro, non c'è nulla di vero in tutto questo, dice terminando la sua esposizione procliana nel citato opuscolo 74. Eppure noi dobbiamo imparare a riconoscere non solo le erbe terapeutiche, ma anche quelle velenose, per curarci con le prime, tenerci lontano dalle seconde e non incappare in quello che ci è estraneo credendolo nostro. Non poteva usare un'immagine più bizantinamente densa di implicanze. Psello non parla di estirpare la letale e credo infestante gramigna del neoplatonismo, raccomanda solo, con una certa dose di ambiguità, di conoscerla per poterla evitare. All'uomo di cultura rivendica il diritto di abbracciare lo scibile nella sua interezza, senza preclusioni, rimandando la censura etico-dogmatica al successivo momento dell'acquisizione spirituale. Questa è la via per garantire lo spazio vitale al sapere laico, senza negarne il finale subordinamento alla fede, in un compromesso che tenta di ricucire la lacerazione costituzionale del bizantino tra il culto dell'eredità classica e la devozione all'ortodossia. Nel complesso, credo che l'esegesi teologica pselliana, quale possiamo ora leggere nei testi di Gautier e soprattutto nelle lezioni su Gregorio, migliori non solo le nostre conoscenze, ma anche l'immagine di Psello, e non solo come maestro. Non che i suoi noti difetti, eccessiva disinvoltura nel maneggio dei testi, per esempio, e superficialità scompaiano, anzi sono confermati. Non voglio fare esempi, ma almeno uno, là dove Gregorio parla nell'orazione 29.2 di Plotino, senza citarne il nome, Psello insiste, e sbaglia tutta una lezione, a vedere Platone. Un'altra volta c'è un anacronismo raggelante, vuol vedere Teodoreto di Cirro interprete di un passo di Giovanni Climaco. Il professore lavora troppo, fa troppe cose, cita a memoria e la memoria non sempre lo sostiene come egli vorrebbe. Anche se dal punto di vista propriamente teologico non si registra una forte originalità di sviluppi, bisogna sottolineare però che l'esegesi non si arresta mai alla superficie del testo e non si contenta di soluzioni troppo facili, punta invece ai nodi più complessi della dottrina di Gregorio. Questo impegno a un'analisi attenta dei contenuti del patrimonio dogmatico e concettuale ha un immediato riscontro nella limitata presenza di spunti ed elementi propri dell'indagine retorico-formale. Se consideriamo l'universale apprezzamento dei bizantini per l'arte oratoria di Gregorio, dobbiamo riconoscere che la ritrosia di Psello di fronte alle facili lusinghe di una lettura, anche solo occasionalmente retorica, è tanto più interessante. Egli non dissimula, certo, e non sminuisce i valori tecnici del testo, ma evita accuratamente di porli al centro delle sue lezioni. Una volta enumera rapidamente i pregi retorici del Nazianzeno, ma dopo aver concluso che è difficile scegliere il valore più alto, torna subito all'oggetto stretto dell'esegesi. Non vuole occuparsi del problema retorico, dice, e lo rinvia ad altre occasioni, perché non intende leggere Gregorio come si fa comunemente, catatus pollus. Gli altri esegeti spendono energie preziose ad analizzare le ideai dell'eloquio del Nazianzeno. A Psello preme invece concentrarsi sulla sua filosofia. Se apre una parentesi sullo stile di Gregorio, avverte gli studenti che è bene si concentrino sulle ragioni per cui gli autori di volta in volta utilizzano questo o quel registro espressivo, invece di limitarsi ad ammirare superficialmente i retori che snocciolano i termini tecnici. Io, cita il Gorgia platonico, non chiamo arte una pratica senza ragione. La retorica non deve ebluir, ma soltanto condurre alla comprensione del testo. Benché Psello, altrove, si proclami egualmente abile in entrambe, è noto che le sue preferenze vanno alla filosofia piuttosto che alla retorica. Ma questa opzione è recisamente dichiarata soprattutto nei testi per la scuola. In una sua lezione già edita da Littlewood, rimprovera aspramente gli studenti perché antepongono la filosofia alla retorica. E gli opuscoli su Nazianzeno ribadiscono questa gerarchia, che Psello richiama espressamente un giorno in cui vuole creare negli allievi la coscienza dell'alta realizzazione filosofica cui egli li guida attraverso la lettura di Gregorio. Dopo una spiegazione particolarmente ardua e sottile sulla natura del motto divino, li invita a discendere per ricreare la mente nei prati leggiadri della retorica, per svago, onde poi poter risalire alla specola sublime della filosofia. Solo al di fuori della scuola, sappiamo, Psello esplicita la sua attenzione per lo stile di Gregorio, nei già citati saggi letterari su Nazianzeno e gli altri padri, in una lusis scritta per un ignoto destinatario, scritta non destinata alla scuola, nella quale preannuncia di voler comporre un manuale di retorica interamente esemplato sui testi del teologo. Nella prassi didattica, invece, si adopera fortemente per sottrarre le orazioni di Gregorio a una lettura in chiave retorica, restituendole così all'incontrastato dominio della filosofia. E sta proprio qui l'enorme importanza delle lezioni su Nazianzeno e in generale di questi testi teologici. I nuovi scritti che conosciamo ci documentano concretamente ed estesamente quello che prima era affidato per lo più a dichiarazioni teoriche dello scrittore. Siamo anche liberi di non credere fino in fondo a Psello quando si vanta di aver resuscitato da solo la sofia agonizzante, riscoprendo il tesoro della speculazione ellenica. Ma ora verifichiamo che la filosofia è effettivamente l'orizzonte che unifica e organizza i singoli momenti della sua pedagogia e della sua cultura, a proposito delle quali bisognerà decidersi ad affermare con maggior convinzione e a voce più alta che Psello non è, come a qualcuno potrebbe apparire, solo un proteiforme divulgatore. A misura che ci si inoltra in quel vasto cosmo di interessi disparati, egli si rivela un sempre più coerente fautore di una cultura unitaria e onnicomprensiva, priva di diaframmi, governata dal principio dell'osmosi e della circolarità. Il suo magistero, quindi, non può essere semplicisticamente considerato dispersivo né sofistico. L'envergure del grande professore, l'estensione dell'indagine sul piano orizzontale, alle discipline contigue, e verticale, al recupero del passato, senza sopprimere la lettura specialistica, la polarizza, iscrivendola nel cerchio massimo della paideia filosofica, dove, e qui sta una grossa novità, la figura di Gregorio travalica la canonica dimensione bizantina del teologo e del letterato, del defensor fidei, del Demostene cristiano, per riemergere quale maestro di pensiero e dialettico insuperabile, insomma, autentico filosofo dell'ortodossia. Appartiene certamente ai meriti di Psello aver cercato di fare delle sue orazioni un testo focale in una scuola che ambiva non solo alla trasmissione, come si dice tante volte, ma anche al rinnovamento del sapere, e di averne ricavato, con tutta la soggettività della sua ottica e dei suoi obiettivi, ogni possibile lievito formativo. Ma è di straordinario interesse per la storia tanto ricca, sebbene ancora tanto ignota, del Nachlebe medio greco di Gregorio Teologo, trovare i suoi discorsi centralmente coinvolti nella rifondazione generale della cultura bizantina che il professore Psello promuove a metà dell'undicesimo secolo. Grazie. Enrico Maltese ci ha dimostrato che io avevo ragione non al 10%, ma al 100% quando prima ho presentato con poche parole, senza sapere quello che avrebbe detto, questa sua relazione, che è particolarmente interessante sia dal punto di vista teorico, perché scopre questo nuovo modo, questo metodo universitario di Psello che finora non si conosceva e che Maltese ha tratto alla luce in base alla lettura di questi opuscoli, e poi è particolarmente funzionale per gli interessi che sono stati discussi in questo contesto, proprio che è stato Gregorio di Nazianzo, sembra dunque di sì, a stimolare Psello per questo nuovo modo di fare scuola, di insegnare e di recuperare insieme la paideia greca e l'ortodossia cristiana. È stato dunque il Nazianzeno che ha avuto questa funzione utilissima attraverso un insegnamento di Psello. Di lui si potrà dire quello che si vuole, cioè si potranno fare le critiche che spesso è giusto fare ai professori universitari circa la loro, un po', la loro vanità e la loro, anche il loro essere complicati, cioè trovare le cose, trovare le difficoltà dove non ci sono, però quando si tratta di andare in fondo al problema, in fondo bene o male Psello ha fatto quello che doveva eseguire, e Gregorio di Nazianzo è stato il mezzo per attuare questo suo magistero. Allora, per concludere i lavori bisogna dire che adesso apriamo la discussione su queste due ultime relazioni che sono state particolarmente stimolanti, e prima raccoglierei gli interventi sulla relazione di Crini e poi su questa di Maltese.